contro la pirateria. La Margherita chiede i danni all'Usi, vuole un risarcimento fra i 5 e i 10 milioni di euro. Champions League, provaci ancora Inter, ultima chiamata per salvare una stagione. Una giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Il garante per la privacy Francesco Pizzetti lancia l'allarme sul fisco. Le nuove norme sulla trasparenza nei controlli fiscali rappresentano, secondo Pizzetti, strappi forti allo Stato di diritto e aggiunge: siamo in una fase di emergenza dalla quale uscire al più presto, altrimenti lo spread fra democrazie italiane e occidentali crescerà. Riferendosi alle ultime proposte sul bollino blu per i negozi che rilasciano ricevuta, Pizzetti ha detto di fare attenzione alle liste dei buoni e dei cattivi. Questa mattina la nuova asta dei bot, sentiamo com'è andata in diretta con noi Deborah Rosciani. È andata molto bene, c'è stato un deciso calo per i rendimenti dei titoli emessi a scadenza trimestrale e per i titoli a scadenza annuale. I bot a tre mesi sono scesi in termini di rendimento allo 0,49% contro l'1,9% del settembre dello scorso anno, mentre per quello che riguarda i bot annuali il rendimento spuntato dal Tesoro italiano è stato dell'1,40% ai minimi d'agosto 2010 contro il 2,2% di febbraio. Buona anche la domanda, è stata complessivamente di 7,8 miliardi di euro contro un'offerta di 3 miliardi e mezzo per i titoli trimestrali, mentre per i bot annuali l'importo richiesto è stato di 11,7 miliardi contro gli 8 miliardi e mezzo offerti dal Tesoro. Questo stamattina ha fatto bene anche alla borsa, ha fatto bene anche ai titoli del settore bancario. Complessivamente il mercato italiano azionario guadagna l'1,24%, i titoli bancari vanno bene, una buona giornata complessivamente per tutta la borsa europea. Per quello che riguarda lo spread, il differenziale di rendimento fra i titoli italiani e i titoli tedeschi sulla scadenza decennale, siamo però in risalita intorno ai 313 punti base. Per ora è tutto. Grazie alla nostra Deborah Rosciani. Ed oggi è anche il giorno dell'Ecofin a Bruxelles. Tobin Tax, in primo piano, in diretta con noi da Bruxelles, il collega del Sole 24 Ore, Beda Romano. Beda. Sì, buongiorno. Allora, a che punto sono i lavori? I lavori stanno per terminare. Si è discusso questa mattina di almeno tre punti in agenda. Prima di tutto la possibilità di una tassa sulle transazioni finanziarie. Non c'è accordo in Europa su quest'idea. Molti paesi, soprattutto dell'Unione Europea, non della zona euro, sono contrari. C'è l'ipotesi di introdurre una tassa semplicemente per i paesi della zona euro, ma in questo momento le trattative sono ancora in corso e non è una decisione che verrà presa oggi. L'altro aspetto su cui si è discusso è l'Ungheria. Il paese è in deficit eccessivo e ha dovuto subire la proposta della Commissione di congelare fondi strutturali. La decisione entra in vigore nel gennaio del 2013 e quindi l'Ungheria ha ancora 9 mesi per cercare di rimettere ordine nei propri conti pubblici. Invece il terzo punto riguarda la Spagna. La Spagna ha un deficit elevato, più elevato del previsto, e i ministri finanziari della zona euro hanno preso una decisione molto realistica su questo fronte. Hanno deciso di permettere alla Spagna di sforare i suoi obiettivi di deficit nel 2012, ma di mantenere l'obiettivo del 2013 di rientro entro il 3% del prodotto interno lordo. È la prima decisione di sostanza sul nuovo patto di stabilità e di crescita, ed è una decisione, come dicevo prima, che è piuttosto realistica. Certamente ha giocato il fatto che la Spagna ha una disoccupazione di oltre il 20%. Ecco, Beda, poi ci sono le parole del nostro Premier Mario Monti sulla Tobin Tax. Sì, l'Italia ha cambiato posizione su questo fronte. Il governo precedente era contrario. Il nuovo governo Monti è favorevole, il Presidente del Consiglio ha però sottolineato l'importanza che questa tassa, se mai dovesse essere introdotta, deve essere introdotta a livello di Unione Europea, possibilmente. La grande preoccupazione di Mario Monti è che questa tassa possa in un modo o nell'altro modificare gli equilibri del mercato unico. Grazie, grazie a Beda Romano, collega del Sole 24 Ore da Bruxelles. E noi andiamo alle altre notizie. Per la prima volta nella sua storia il Giappone comprerà titoli di Stato cinesi a testimonianza del rafforzamento dei rapporti economici e finanziari fra i due paesi. Questa mossa fa seguito all'incontro a fine dicembre in cui il premier nipponico Yoshihiko Noda e l'omologo cinese Wen Jiabao hanno firmato un ampio accordo di collaborazione in campo finanziario. L'autorità di garanzia sugli scioperi, veniamo così all'Italia, avrebbe deciso di aprire un procedimento contro le principali associazioni di categoria dei taxi per i blocchi avvenuti in gennaio contro le norme sulle liberalizzazioni. A gennaio le loro proteste, i loro blocchi stradali contro le liberalizzazioni del governo Monti avevano mandato in tilt il traffico in molte città. Quasi impossibile poi in quei giorni trovare un taxi a Napoli, Milano, Bologna e soprattutto a Roma, dove i tassisti erano anche arrivati a bloccare il traffico di fronte a Palazzo Chigi per dire no a molte delle misure sulle auto bianche previste dal decreto dell'esecutivo. Proteste selvagge sulle quali ora l'autorità di garanzia sugli scioperi avrebbe deciso di aprire un procedimento per valutare la posizione delle principali associazioni di categoria, non quindi quelle dei singoli tassisti. Alla base dell'istruttoria ci sarebbero soprattutto segnalazioni arrivate da prefetture e privati cittadini. Già nei giorni caldi della protesta fra il 12 e il 19 gennaio, l'autorità si era fatta sentire chiedendo al Ministero dell'Interno, ai prefetti e ai sindacati di categoria di intervenire considerando illegittimi i blocchi avvenuti al di fuori delle regole di garanzia. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Settimana decisiva per la riforma del mercato del lavoro. Il governo vuole infatti chiudere in 10 giorni e si comincia con una serie di incontri bilaterali per il ministro Fornero. In diretta con noi da Roma, Alessandra Schepisi. Sì, così siamo alle battute finali della trattativa, ma sono ancora molti nodi da sciogliere, dal capitolo sugli ammortizzatori sociali alla flessibilità in uscita. Con l'articolo 18 il ministro del welfare Fornero avvierà dalle prossime ore una serie di incontri bilaterali con le parti sociali in vista del tavolo di lunedì a Palazzo Chigi con Monti. Ieri Fornero ha presentato il pacchetto riguardante il riordino dei contratti e la riforma degli ammortizzatori, riforma che entrerà a regime dal 2015 con 2 anni di anticipo e che prevede una indennità di disoccupazione di 1.119 euro mensili fino a 18 mesi al posto degli attuali strumenti, esclusa la cassa integrazione ordinaria e parte di quella straordinaria che invece rimarrebbero. Un anticipo però che non è piaciuto né a Confindustria né ai sindacati. Camusso ha parlato di passo indietro, Bonanni di ecatombe sociale, leader della CISL che torna oggi a chiedere al governo di cambiare posizione perché in tempo di crisi e con l'innalzamento dell'età pensionabile è necessaria una durata più lunga per i sussidi di disoccupazione. Accordo invece sull'apprendistato, quale contratto prevalente d'ingresso, e sulla necessità di far pagare di più i contratti a tempo determinato. Una riforma ineludibile, ha detto il presidente dell'INPS Mastra Pasqua, perché nell'attuale mercato del lavoro ci sono storture che vanno corrette e dunque è bene che il governo, dopo la riforma delle pensioni, ora acceleri su quella del lavoro. Mentre dal mondo politico parla il leader dell'UDC Casini, serve un'intesa perché c'è una grande emergenza lavoro. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Le piccole e medie imprese di commercianti e artigiani riuniti nella rete Impresa Italia protestano contro l'aumento del costo del lavoro per l'introduzione dei nuovi ammortizzatori sociali e per i nuovi contratti a tempo determinato. Il presidente di Rete Impresa Italia, Marco Venturi, al microfono di Anna Marino. Questo scaricare un aumento del costo del lavoro sulle piccole e medie imprese per noi è inaccettabile, perché proprio le piccole e medie imprese sono quelle che garantiscono la maggior parte del lavoro nel nostro paese, quindi sarebbe colpire le piccole imprese, vorrebbe dire colpire anche le politiche stesse del lavoro. Quindi su questo noi abbiamo chiesto un ripensamento al ministro, perché è un punto importante di tutta la trattativa, e abbiamo chiesto ovviamente di lavorare per ridurre il tasso strutturale della disoccupazione. Penso anche al Mezzogiorno d'Italia, quindi le piccole e medie imprese possono svolgere un ruolo importantissimo minimo da questo punto di vista, però oltre alle eventuali aumenti del costo del lavoro abbiamo registrato l'aumento dell'IVA. Insomma, non si può attaccare da tutte le parti, diciamo, queste imprese che assicurano crescita e occupazione al Paese. Quanto stimate che crescerebbe il costo del lavoro per le piccole e medie imprese? Un 2%, che per noi è inaccettabile, visto che poi la gran parte dell'occupazione, 54%, è determinato proprio dalle piccole e medie imprese. L'Istat conferma le sue stime provvisorie, l'inflazione annua a febbraio risale al 3,3%, il rincaro del carrello della spesa, cioè i prodotti acquistati con maggior frequenza, è del 4,5% su base annua, con un rialzo che risulta il maggiore dal 2008. Nel secondo mese dell'anno la benzina sale del 18,6% su base annua e del 2% su base mensile. Oggi nuovi rincari per i carburanti. E sul fronte delle case tornano ad aumentare le compravendite nel terzo trimestre 2011. L'aumento è dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2010. Nello stesso periodo però diminuiscono i mutui, giù del 18,1% rispetto al secondo trimestre 2010. Andiamo a Londra per le novità delle ultime ore sullo scandalo intercettazioni e noi ci colleghiamo con il collega del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano. Allora, le ultime, Leonardo. Questa mattina all'alba sono state arrestate 6 persone a Londra e fuori Londra, soprattutto nell'Oxfordshire e Buckinghamshire. Soprattutto è stata arrestata Rebecca Brooks, che è stato l'amministratore delegato di News International, cioè il braccio inglese delle attività editoriali di Rupert Murdoch, insieme al marito. È un ritorno in carcere, perché la Brooks era stata arrestata già nei mesi scorsi, ma per un paio di giorni, poi era stata rimessa in libertà. In questo caso l'accusa è molto più grave, cioè quella di cercare di inquinare le prove o comunque di interferire con le indagini di Scotland Yard per evitare evidentemente che venga alla luce tutto quanto è stato fatto in questi anni. Si mette dunque male per Rebecca Brooks. Noi ringraziamo il collega del Sole 24 Ore da Londra, Leonardo Maisano, e tiriamo un po' il fiato con il calcio. Stasera ultima chiamata per l'Inter. È una notte senza appello, tipica da Inter. Serve a ribaltare lo 0-1 dell'andata, cosa non impossibile visto le condizioni del Marsiglia, sbattacchiato come un tappeto nelle ultime 4 partite di campionato e con un allenatore che sta perfino peggio di Ranieri. In Francia, infatti, danno quasi per certo l'esonero del tecnico Deschamps in caso di eliminazione. Per Ranieri, invece, c'è qualche chance in più. Anche perché l'Inter, dopo un filotto di sconfitte e un pareggio col Catania, è perfino tornata a vincere col Chievo. Insomma, è una super sfida tra due zoppi per decidere chi alla fine resta in corsa nei quarti. Ranieri, che si affida a Snyder e Milito, ne è ben consapevole. Ci aspetta una partita molto ma molto delicata. Hanno recuperato Remy, che è un giocatore molto veloce, che sa sfruttare molto bene il contropiede, e per cui dobbiamo essere determinati, decisi, ma sempre con molto sale in zucca, perché non possiamo sbagliare nulla. Stankovic, che guiderà il centrocampo, si aspetta un grande appoggio dai 60.000 tifosi. Anche il presidente Moratti si aspetta una grande partita. All'Inter, soprattutto nelle notti di primavera, ogni tanto capita. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le nuove norme sulla trasparenza amministrativa nei controlli fiscali rappresentano strappi forti allo Stato di diritto. L'allarme del garante per la privacy, Pizzetti. Inchiesta dell'autorità di garanzia sugli scioperi dei tassisti contro le liberalizzazioni. Scandalo intercettazioni in Gran Bretagna. Arrestati Rebecca Brooks e suo marito. E riprendiamo nella seconda parte di GR24 con la vicenda dei due marò arrestati in India con l'accusa di aver ucciso due pescatori. L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Catherine Ashton, ha incontrato questa mattina a Bruxelles, poco prima dell'Ecofin, il premier Mario Monti. L'obiettivo resta di trovare una soluzione soddisfacente alla vicenda, ha spiegato la portavoce della Ashton. Obiettivo è anche quello di rivedere le norme sull'ingaggio di personale armato su navi che trasportano merci sensibili. Le Nazioni Unite invieranno la settimana prossima osservatori nelle zone di frontiera dei paesi confinanti con la Siria per raccogliere testimonianze sulle violazioni e le atrocità commesse nel paese. Intanto il segretario generale dell'ONU, Kofi Annan, vuole delle risposte da Assad in giornata dopo i massacri degli ultimi giorni. Se la comunità internazionale non farà qualcosa, in Siria succederà quello che è accaduto in Ruanda. È l'allarme accorato lanciato dai microfoni di Radio 24 e Sole 24 Ore dal gesuita padre Paolo Dall'Oglio, che ha vissuto a Damasco la maggior parte della sua vita e ha fondato la comunità monastica di Mar Musa, dove ancora risiede, sempre dunque in Siria. Sentiamo la sua testimonianza al microfono di Katia Caramelli. Siamo molto angosciati per l'aumento esponenziale della violenza in questo paese, che rischia di mettere da parte tutte le idealità per sprofondare in una palude di violenze reciproche che non vengono in nessun modo limitate, quindi questo ci provoca grande angoscia. Il massacro di ieri è stato terribile. Non sono ancora in grado di sapere come è avvenuto e da parte di chi è stato perpetrato, posso solo esprimere moltissima angoscia, molto dolore, e chiunque sia stato ucciso e chiunque lo abbia ucciso è il segno forte del disastro in cui stiamo cadendo. Padre Paolo, un disastro dal quale come si esce secondo lei? Qual è la strada? Sono mesi che dico che bisognerebbe fare una scelta di non violenza internazionale che consenta l'invio di diverse decine di migliaia di accompagnatori non violenti, proprio pensavo a quel quartiere dove è avvenuto il massacro di ieri, per accompagnare la riconciliazione tra le popolazioni, ma questo richiede un impegno positivo da parte delle autorità governative, un impegno molto preciso da parte della collettività internazionale, altrimenti sono i sogni di Padre Paolo. Per ora sono i sogni di Padre Paolo. Allora, qual è l'alternativa? Ognuno ha la sua responsabilità morale e naturalmente non penso che la collettività internazionale possa continuare a vedere questo disastro e l'Europa sull'est del Mediterraneo, questa situazione, senza cercare di fare qualcosa. Altrimenti che cosa succederà in Siria? In piccolo quello che è successo in Ruanda. E andiamo ora in Afghanistan. Questa mattina circa 400 studenti hanno manifestato contro gli Stati Uniti a Jalalabad nella prima protesta dopo la strage ad opera di un soldato americano. E questa mattina, prima edizione, è stato ospite il portavoce del contingente italiano ad Herat, il colonnello Vincenzo Lauro. La regione ovest dell'Afghanistan, attualmente non registriamo nessun contrasto con la popolazione civile né tantomeno con le autorità locali. Sicuramente è un evento che abbiamo condannato perché abbiamo espresso il nostro cordoglio e tutta la solidarietà al popolo afghano e il cordoglio alle famiglie che sono state colpite da questo evento. Il nostro è un comando NATO che è composto da 8.000 uomini, di cui 4.000 sono italiani. Allo stesso modo manteniamo gli impegni che il contingente deve portare avanti e non c'è tempo sicuramente per le parole, ma per dimostrare che con i fatti noi siamo sempre accanto a questo paese per il loro futuro. Caso Lusi, ora sull'ex tesoriere della Margherita pende anche una denuncia per diffamazione. In diretta con noi da Roma, Elisabetta Fiorito. Sì, buongiorno. Stavolta a mettere nei guai Luigi Lusi non sono i magistrati ma i suoi ex compagni di partito. L'ex tesoriere della Margherita, indagato, ricordiamo, per corruzione e appropriazione indebita, aveva accusato in TV i vertici del vecchio partito di Rutelli. Facevo quello che mi veniva detto, spiegava Lusi, ma gli ex dirigenti adesso hanno deciso di intentare un'azione civile. Verrà depositata nei prossimi giorni una denuncia per diffamazione a carico di Lusi e la richiesta della parte lesa potrebbe essere compresa in una cifra che va dai 5 ai 10 milioni di euro. La decisione è stata presa ieri al termine di un incontro tra i referenti legali della Margherita per rispondere proprio alle affermazioni del senatore alla trasmissione Servizio Pubblico e in un articolo apparso sul Libero. Per il momento è qui da Roma, è tutto, a voi studio. Grazie ad Elisabetta Fiorito. Dario Ghezzi, il capo della segreteria del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Davide Boni, si è dimesso. È indagato per corruzione in concorso con lo stesso Boni, il quale però ha dichiarato: non mi dimetto perché perché sono innocente. Oggi il presidente del Consiglio regionale avrebbe dovuto prendere la parola in aula per riferire sulla vicenda, scelto invece di inviare una lettera a tutti i consiglieri. Sfido chiunque, scrive Boni in uno dei passaggi, a trovare anche un solo euro nelle mie tasche che non sia frutto del mio lavoro. Dovrà essere rifatto il congresso che ieri a Varese ha eletto i delegati provinciali per il congresso della Lega Lombarda a giugno. Il segretario regionale Giancarlo Giorgetti ha annullato l'esito delle primarie per problemi con la regolarità delle schede, 332 quelle scrutinate contro 229 votanti effettivi. La Lega di Varese, dove nei mesi scorsi ci fu la contestata nomina del segretario provinciale Maurilio Canton, dovrà dunque rivotare entro 30 giorni. Nessun broglio, solo un disguido, dice il maroniano Dario Galli, presidente della provincia di Varese. Lo ha intervistato Maria Luisa Pezzali. Nessuno parla di brogli, il broglio è una cosa diversa. Quella fine sono risultate tre schede in più, può anche esserci l'errore materiale e in ogni caso, correttamente, proprio per togliere ogni dubbio, si è deciso di ripetere l'operazione di voto e quindi si annulla ogni eventuale contestazione di qualunque tipo. Che cosa sta succedendo nella Lega Varese? C'è stata un'elezione sei mesi fa che ha avuto la storia che tutti conosciamo e che ha lasciato qualche scia di polemiche, però la cosa di per sé è stata assorbita. Nessuno è stato travolto o stravolto più di tanto nelle proprie attività da questa segreteria. Ci sono sensibilità diverse all'interno del partito e se ogni tanto queste si confrontano, credo che sia solo un bene per la vita del partito stesso. C'è chi mette insieme un po' tutto, la vicenda Boni, la vicenda Tosi, e sottolinea la Lega si sta sgretolando. Credo che ogni sei mesi c'è il titolo del giornale con scritto la Lega si sta sgretolando, sono passati 25 anni e credo che in questo momento siamo il partito più antico, la Lega non si sta sgretolando e credo proprio che non si sgretolerà per moltissimi anni ancora. Inchiesta sulla cosiddetta P4, la Procura di Napoli ha chiesto al giudice per le indagini preliminari l'archiviazione della posizione di Mauro Moretti, amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato. Abbiamo sentito nella prima parte di GR24 l'allarme del garante della privacy Pizzetti, ora invece il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Mantova, pieno centro. Accanto al castello di San Giorgio esiste un parcheggio molto frequentato dai turisti come dai mantovani. Un via vai continuo di auto tutti i giorni da 6 anni in qua. E mai una ricevuta. Finalmente qualcuno ha fatto un controllo. Pochi giorni fa è venuto fuori che il gestore, un quarantenne di Colle Aperto, portava avanti un'allegra gestione, come racconta il colonnello Dario Guarino. Non solo non aveva il bollettario, insomma il bloccatario delle ricevute fiscali, non aveva neanche il misuratore in alternativa per fare gli scontrini fiscali, non aveva alcun tipo di documentazione, quindi non aveva mai presentato una dichiarazione. A forza di 5 euro ad auto si fa presto a fare i conti. Il gestore intascava più o meno 4.000 euro al mese in nero. In 6 anni fanno quasi 290.000 euro, tutto esentasse. E mai in 6 anni che qualcuno abbia pensato di fare un controllo. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci in regia Filippa Oreggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.